Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Martedì difficile per il trasporto nei cieli italiani, partono tra poco, proprio alle 11, sono in programma fino alle 15 gli scioperi di Alitalia e Meridiana. Lo stato di agitazione di quest'ultima compagnia in realtà dura da un po', con un picco anomalo di assenze per malattia dei dipendenti. La compagnia sarda negli ultimi giorni sta mandando in tilt i piani di viaggio di molte famiglie e passeggeri, e come spesso accade d'estate, fra compagnie che falliscono, perché pure queste abbiamo avuto, terremoti politici in qualche parte del mondo, aeroporti ingolfati che perdono bagagli, dobbiamo fare i conti con pesanti disagi per i viaggiatori. Allora noi oggi siamo qui per fare un punto della situazione sulle vicende proprio dell'attualità, ma parleremo anche dei diritti del passeggero, con un occhio naturalmente sempre puntato anche alle vicende di borse. Questa mattina di nuovo dirompente il caso Monte dei Paschi. È stato tempo di partire, volare, compagnia e permettendo, ma anche di cambiare, perché l'estate è un momento particolarmente favorevole per provare a modificare il proprio stile di vita, uscire dagli schemi della solita routine e rimettersi finalmente in forma. Ecco, questa è la parola chiave. Che cosa significa per voi essere in forma? Essere magri? Scolpiti? Con tanto di tartaruga, riuscire a mantenere un buon tempo durante i vostri allenamenti? Risultare simpatici, brillanti, avere successo nel lavoro? Allora chiamateci, ma oggi provate anche a pensare quando potete dire di sentirvi in forma. Insomma, qual è l'ultima volta che, incontrando un amico, gli avete detto: sai che ti dico, mi sento proprio bene, in forma. Ne parleremo oggi col dottor Massimo Gualersi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, che verrà a trovarci qua in studio e ci darà le indicazioni di base per migliorare, mantenere o recuperare la nostra forma. Chiamateci, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Allora, intanto segnalo subito che prosegue con il sesto appuntamento la guida alla Brexit, l'estate dell'incertezza del Sole 24 Ore. Il numero di oggi è dedicato a come difendere i propri risparmi in un momento di grossa turbolenza dei mercati finanziari. Turbolenza oggi è la parola che va bene anche per la parte del programma sui voli. Allora, e ha come focus appunto il numero di oggi i beni rifugio, cioè quelle classi di investimento considerate a torto o a ragione più solide, fra cui su tutte spiccano l'oro, i titoli di Stato e le valute. Allora, a proposito di mercati turbolenti, è una giornata di nuovo turbolenta per i mercati europei. Parigi e Francoforte perdono 1,5%, Londra perde lo 0,7% e stamattina abbiamo maturato un quadro negativo in tutta l'Asia. E Milano perde 1%. Segnaliamo ancora una volta il caso Monte dei Paschi, meno 9% in borsa in questo momento, il titolo scivola sotto i 30 centesimi di euro, praticamente dall'inizio dell'anno ha perso quasi l'80% del suo valore ed è un'emorragia senza sosta. È iniziata da molto tempo, come sapete, ma ad appesantire la situazione le notizie arrivate proprio nelle ultime ore, a partire dall'ultimatum della Banca Centrale Europea che già ieri ha mandato il titolo a tappeto a Piazza Affari. La notizia che la vigilanza europea avrebbe chiesto lo smaltimento di 10 miliardi di crediti deteriorati entro il 2018 ha scatenato questa ondata di vendite sul titolo. Sono valse a poco le rassicurazioni della banca, che ha sottolineato che i parametri sul calo dei crediti deteriorati contenuti nella lettera inviata dalla BCE sono in linea con gli obiettivi di un programma di azioni specifiche che recentemente è stato approvato dai competenti organi di Monte dei Paschi e contestualmente sottoposto alle valutazioni della BCE, ma appunto, come dicevo, questa rassicurazione non è bastata. Ieri peraltro era previsto anche un vertice a Roma fra governo, Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Atlante. Stamattina dai giornali leggiamo della possibilità che alla banca venga suggerito di effettuare una ricapitalizzazione precauzionale con il via libera di Bruxelles. Chissà di che cosa si tratta, ci spiega tutto Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che salutiamo. Marco, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, una ricapitalizzazione precauzionale, la spiega bene questa mattina anche Isabella Bufacchi insieme a tutti i vostri articoli che compaiono sulle pagine del quotidiano. Di che cosa si tratta questa iniziativa, che potrebbe avere il via libera di Bruxelles? Che ruolo avrebbe peraltro lo Stato italiano, Marco, visto che Monte dei Paschi ha appena terminato di rimborsare gli interessi sui Monti Bond e quindi è finita il rimborso di un prestito, se ne riconfigurerebbe un altro sotto forma diversa sostanzialmente? Sì, corretto, perché questa ricapitalizzazione precauzionale avrebbe nel soggetto attore il suo elemento fondamentale, perché ad effettuarla sarebbe lo Stato. Direttamente, quindi con fondi del tesoro, magari indirettamente, si ipotizza ad esempio la cassa depositi e prestiti, e sarebbe una delle poche deroghe previste dalla BRRD, che è la direttiva europea che di fatto sulle risoluzioni bancarie, sì. Esattamente, è una delle poche deroghe previste per l'intervento pubblico dello Stato appunto in una banca. Questo perché? Perché a fine luglio, non dimentichiamo, usciranno le nuove pagelle dell'EBA e della BCE sulle principali banche europee, tra queste c'è anche Monte dei Paschi. Da quello che si sa non sarà una buona pagella, e la lettera della BCE di cui parlavi sui crediti deteriorati di fatto ne è una conferma. Quindi in questo caso potrebbe configurarsi la condizione in base alla quale lo Stato può effettivamente ricapitalizzare la banca, e questa sembra essere la, come dire, la trattativa che Roma sta conducendo con Bruxelles. C'è un punto però, nel senso che bisogna capire se in questo caso dovrebbe comunque essere coinvolta diciamo tutta la massa degli obbligazionisti subordinati oppure no. Questo è un nodo su cui, a quanto risulta, si sta ancora trattando. È un punto molto deciso delle dichiarazioni del governo di Matteo Renzi, che ha detto: comunque vadano le cose, io ho tutta l'intenzione di salvare i risparmiatori, gli obbligazionisti nella fattispecie, perché non vuole rivedere di nuovo quanto accaduto a novembre con le quattro famose banche risolte, Etruria e il resto della compagnia, no Marco? Esattamente. In questo quanti caso, obbligazionisti peraltro Monte dei Paschi ci sono in circolazione? È già stato diffuso, questo dato esiste, sì, adesso non vorrei metterti in difficoltà. Gli obbligazionisti, diciamo risparmiatori, sono circa 70.000, quindi sono tantissimi. Monte Paschi è una banca grande che ovviamente, come tutte le grandi banche, ha fatto abituale ricorso alle obbligazioni, anche prima che entrassero in vigore le norme sul bail-in. È chiaro che il precedente delle quattro banche, Banca Marche e le altre, è particolarmente funesto, perché in quel caso le obbligazioni sono state convertite a fronte di un capitale azzerato. In questo caso venissero convertite, sarebbero convertite in azioni. Però se pensiamo all'effetto contagio che ha avuto il salvataggio di quattro piccole banche come le quattro, si può immaginare quali sarebbero le conseguenze di un trattamento analogo per una banca grande come Monte dei Paschi di Siena. Infatti. Bisogna dire però che insomma sul mercato la tensione è altissima, la banca oggi vale meno di 1 miliardo, una cifra veramente irrisoria. Quello che sembra è che però insomma gli spiragli per trovare una soluzione ci siano. Non dimentichiamo che la Germania, che è uno dei paesi più rigoristi sulle banche, ha i suoi problemi in casa a partire da Deutsche Bank, quindi è difficile pensare che arrivi a un muro contro muro, certo, sull'Italia su questo tema. Ecco, questa è l'unica come dire, considerazione che protegge un po' tutte le nostre preoccupazioni, che sono piuttosto alte. Marco, peraltro è anche abbastanza curioso che con questi livelli di capitalizzazione il titolo sia ancora quotato fra i principali della borsa italiana nel FTSE MIB. Forse avverrà a breve una, non so, lo immagino io, una ricomposizione dell'indice che la porti fuori fra i titoli a capitalizzazione inferiore. Potrebbe essere. Sì, è probabile, è anche vero che con una volatilità così si entra e si esce dal paniere principali con estrema facilità. Infatti. Ha perso il 20% in due sedute. Purtroppo è da mesi che il Monte è abituato a questi scossoni double digit, o in giù o in su, purtroppo più spesso in giù che in su. Però effettivamente ad oggi fa impressione vederlo nel paniere principale. Erano partiti malissimo anche tutti gli altri titoli, adesso c'è una prova generale di recupero, abbiamo circa 2 punti di rialzo per Pop Milano, Unicredit, Banco Popolare qua per il timore di un effetto contagio, poi Pop Emilia Romagna più 1,17, UbiBank in rialzo di 1 punto. Marco, grazie per essere stato con noi, ma ho la sensazione che oggi ti sentiremo molto frequentemente nel nostro palinsesto. Buona giornata. Grazie anche a voi. Cambiamo rapidamente argomento. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic... Ecco, ci sono 2 o 3 compagnie in Italia che in questo momento tanto Come Fly With Me non lo possono cantare. È un martedì di scioperi nei cieli italiani, previsti dalle 11 alle 15 agitazioni sia per l'Italia che per Meridiana. Insomma, come ogni estate che si rispetti, abbiamo la consueta grana turistica, della quale faremmo volentieri a meno, e che ci obbliga a stilare il consueto vademecum con i diritti del passeggero, i diritti dei passeggeri che rimangono coinvolti nei disservizi di questo tipo. Allora, per quanto riguarda un breve riassunto della situazione, per quanto riguarda all'Italia, che ha come primo socio industriale il vettore degli Emirati Etihad, si tratta del primo sciopero da molti anni. È stato proclamato dai sindacati di categoria Filt CGL, Fit Gisl, Will Trasporti e UGL Trasporto Aereo, che lamentano che sarebbero aumentati gli orari di lavoro, Si utilizzano procedure di licenziamento individuale, a parere dei sindacati fuori dalle norme, si eliminano agevolazioni decennali che consentono ai lavoratori pendolari di spostarsi gratuitamente su alcune tratte. Allora, proprio su questo punto, peraltro, ieri è stata diffusa invece una lettera dell'amministratore delegato della compagnia che si scusa per i disservizi con tutti i passeggeri e spiega appunto che i voli gratuiti di cui finora ha beneficiato prevalentemente una minoranza dello staff adesso verrebbero cancellati e quindi i sindacati si sarebbero arrabbiati, spiega Balmer Ball, appunto perché c'è questa intenzione di annullare questi privilegi. Una lettera molto lunga che questa mattina compare anche su alcuni giornali. In una situazione molto più delicata si trova invece Meridiana, in questo caso a proclamare l'agitazione altri sindacati che hanno bocciato l'intesa quadro raggiunta lunedì scorso con la quale si aprirebbe la strada all'accordo con Qatar Airways, ma soprattutto a far arrabbiare la compagnia, in questo caso, la decisione di molti piloti e assistenti di volo di incrociare le braccia, in realtà mettendosi in malattia, e questa situazione appunto di blocco dei lavoratori sta provocando continue cancellazioni di volo. Solo nel fine settimana ne sono stati cancellati 26, al punto che la società ha presentato un esposto in procura sulle improvvise assenze per malattia del personale. Ce n'è di che parlare con Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Federconsumatori, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno dottor Albertinelli. Allora, guardi, già che ha fatto 30, facciamo 31, anzi facciamo le 10:46, è tempo di sentire cosa succede sulle strade italiane. Purtroppo non possiamo sentire cosa accade sui cieli, ma ci arriveremo, chissà. Torniamo volando. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Volare. Abbiamo provato a chiamare questa mattina anche gli aeroporti di Roma per farci raccontare che situazione ci sia, appunto a Roma Fiumicino, ma ci hanno detto no, non parliamo, fate richiesta alle compagnie per farvi raccontare quanti voli questa mattina verranno sospesi. Allora, le agitazioni sindacali partono alle 11, quindi non lo sappiamo ancora. Bruno Albertinelli, faremo qualche, così apriremo, leggeremo la nostra sfera di cristallo per capire che succede. Allora, due stati di agitazione molto diversi, ma con un fattore in comune, i disagi che stanno provocando appunto ai passeggeri. Oggi toccherà l'Italia, ma per Meridiana invece si tratta già di qualche giorno. Cosa vi stanno segnalando i vostri associati e i vostri sportelli, Albertinelli? Stanno segnalando il disagio che le persone stanno trovando in queste giornate, in particolare a partire da sabato per quello che riguarda Meridiana, per poi ricadere nella giornata di oggi. I dati che stanno arrivando, ma credo che siano riportati anche da comunicati nazionali, è che Alitalia ha già cancellato 142 voli. Quindi vuol dire che moltissime persone che per motivi di lavoro... cancellati, esatto. Quindi... Sì, esatto. Dicevo che moltissime persone che per lavoro, per turismo, per tutti i motivi personali hanno prenotato per poter viaggiare, sono nella giornata di oggi veramente soggetti a, come si può dire, al libero arbitrio, uso questa espressione, di quello che potrà succedere. Allora, andiamo invece al caso di Meridiana, Albertinelli, perché qua la situazione è un po' più problematica, visto che le cancellazioni dei voli, come dicevamo 26 nelle fine settimana, sono state dovute alle assenze per malattia di molti dipendenti di Meridiana. Dovrebbero ascoltare Cuore e Denari, chissà che virus improvviso li ha colpiti. Detto questo, adesso noi non vogliamo sminuire anche le contestazioni dei lavoratori, che avranno tutte le loro ragioni per arrabbiarsi con la società, staranno negoziando, non sappiamo. Detto questo, però, c'è l'apertura di un'inchiesta alla Procura della Repubblica. L'azienda si è particolarmente arrabbiata contro questo atteggiamento. Che dire ai passeggeri che devono affrontare tutto ciò? C'è da dire di applicare tutte le normative previste dal codice dei diritti del passeggero, che l'ENAC ha come punto di riferimento ed è anche il titolare, uso questa espressione, a portare avanti per garantire ai passeggeri quelli che sono i diritti basilari da un punto di vista di ritardi, di voli soppressi e robe di questo tipo. È chiaro che il reclamo, il rimborso del biglietto aereo, tutto quello che può essere un discorso di recuperare quanto economicamente uno va a perdere, è soltanto, mi permetto di dire, un percorso minimale intorno a quello che è il disagio e anche senz'altro la perdita salariale che molte persone che avevano prenotato quei voli hanno e avranno per la perdita di quei voli. Il ragionamento è che in un momento in cui tantissime cose vengono messe in discussione, a fare azioni che sono collegabili a scioperi, ma che di fatto non sono scioperi, ma quella di mettersi in malattia, va pesantemente a intaccare il diritto di sciopero. Ricordiamo che c'è, come si può dire, nel paese una richiesta forte di normalizzare tante cose, che può portare anche a normalizzare qualche cosa come il diritto di sciopero in maniera negativa. La strumentalizzazione del diritto di sciopero qualche volta effettivamente è un po' un atteggiamento. Lo sciopero è una cosa, la malattia è un'altra. E mai le persone che veramente lavorano, che veramente hanno conquistato diritti nel nostro paese, si sono messe in malattia per conquistare quei diritti che altri oggi stanno iniziando a intaccare. Allora, intanto 800 24 0024, se volete provare a raccontarci se siete stati vittime dei disservizi dovuti appunto alle cancellazioni dei voli di Meridiana dei giorni scorsi. Oggi abbiamo Alitalia, per cui siete fra i passeggeri di questi 142 voli preventivamente cancellati, come spiega un comunicato appunto della stessa Alitalia, che però Albertinelli ha anche fatto sapere come riproteggerà almeno il maggior numero possibile di viaggiatori. Cosa ha deciso di fare all'Italia? Ma l'Italia ha cercato, mi permetto di dire, in maniera la più possibile positiva, di cercare di limitare il danno, nel senso che ha messo un numero verde per cercare di capire, perché le persone possano chiedere se il volo è presente o non è presente, e ha permesso, da un punto di vista di recupero del biglietto che uno oggi non può utilizzare, di poter recuperare, di poter riprogrammare quel volo fino addirittura al 29 ottobre. Teniamo presente che quello che viene chiamato in inglese, con un nome abbastanza strano, Rebooking mi sembra, no, che ha una durata di 2 giorni, l'Italia lo porta addirittura dal 5 di luglio fino al 29 ottobre 2016, e quindi è una cosa positiva. Dall'altra parte permette anche alle persone di poter recuperare economicamente, immediatamente, il costo del biglietto per quello che è la tratta che è stata cancellata, e quindi c'è un percorso decisivo da un punto di vista di aiuto alle persone che sono disagiate dalla cancellazione di questi voli. Credo che di più non poteva fare, nel senso che poi dopo, oltre a ragionare, ti permetto di poter riprogrammare il volo entro fino al 29 di ottobre, ti permetto di recuperare salarialmente e economicamente quello che hai perso, credo che poi non possano mettere voli aggiuntivi quando il personale deve infatti, certo che poi qua c'è un danno anche di altro tipo, che è quello dovuto al fatto che magari uno, che ne so, doveva spostarsi oggi perché aveva un impegno personale o professionale appunto da rispettare. È chiaro che questa è una circostanza magari irripetibile per molti, quindi il danno è un po' più alto. Detto questo, appunto, prendiamo atto della decisione di Alitalia di riproteggere i propri passeggeri con la possibilità di riprenotare il volo con le medesime caratteristiche entro il 29 ottobre di quest'anno. Ovviamente faceva accenno Albertinelli ad un numero verde che la compagnia ha messo a disposizione, non confondetevi col nostro, quello di Alitalia, che potete chiamare per capire se il vostro volo nelle prossime ore partirà o meno, è 800 650 055. Allora, sai che è il detto che dice non c'è due senza tre? Okay, infatti. Esatto, allora non solo l'Italia, e non solo Meridiana, ma ce n'è anche un'altra che ha creato qualche grattacapo in questi giorni, al punto che è intervenuta addirittura l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, appunto il presidente Vito Riggio li ha direttamente convocati. Qua è una compagnia che in realtà qualche sorpresa ce la presenta ogni anno, ogni estate, una compagnia spagnola, si chiama Vueling, ma direi che di questa compagnia parliamo con Albertinelli, appunto, di Federconsumatori, dopo il giornale radio. A questo punto che ne dici? Certo. E poi allora arriverà anche il tuo ospite. Sì, il arriva nostro ospite. In macchina oppure con non, un volo? Non credo volando, ma a piedi probabile. Conoscendolo, super sportivo com'è. A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Allora, non riesco a riconoscere il rumore, ma secondo te è decollato o atterrato? A me si tappano le orecchie comunque. Che sia decollato o atterrato, questo era partito. Ecco, mi si appannano anche gli occhiali, ma questo è un altro problema. Ho la nebbia, la catarata incorporata. Insomma. Allora, che sia decollato o atterrato, esatto, pulisci. Dai, per piacere. Okay, che perfetto. Presentati, mettiti in ordine per l'arrivo di Massimo Gualessi. Vado? Che sennò poi non è carino da parte nostra. Allora, ribadisco, che sia decollato o atterrato, quel volo era partito. Esatto, e quindi non era ricontemplato fra i voli invece fermi nelle ultime ore per lo stop e le agitazioni che riguardano i dipendenti di Meridiana e Alitalia. Due situazioni molto diverse, naturalmente le abbiamo ben spiegate nella prima parte del programma con Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Federconsumatori. Per quello che riguarda le posizioni delle aziende, ce n'è una molto forte, come abbiamo già detto prima, che è stata pubblicata proprio in questa mattina su tutti i giornali, ed è la lettera che l'amministratore delegato appunto di Alitalia rivolge a tutti i passeggeri scusandosi per le agitazioni che stanno partendo proprio peraltro in questi minuti. Uno sciopero che interessa un certo numero di voli fino alle 15 di oggi, almeno 142 secondo quanto preventivamente comunicato dalla compagnia. E in questa lettera i passeggeri Kramer Ball, appunto, che è l'amministratore delegato di Alitalia, spiega il motivo dello sciopero, spiegando appunto che hanno incrociato le braccia i lavoratori che contestano il fatto che stia arrivando l'annullamento di una serie, tra virgolette, di privilegi di cui avrebbero goduto fino a questo momento, fra cui voli gratuiti per raggiungere le sedi di lavoro di Roma o Milano, di cui beneficiavano prevalentemente una minoranza dello staff fino a questo momento, e che comunque, insomma, la cancellazione di questo porta all'agitazione. Per Meridiana invece le condizioni sono altre, anche in questo caso c'è l'arrivo di un nuovo partner per il gruppo, una riorganizzazione radicale della società e le cancellazioni dovute alle assenze per malattia di molti dipendenti appunto di Meridiana, le cancellazioni che riguardano decine di voli, e la compagnia che ha detto che le assenze sono in parte riconducibili ad una strategia di protesta informale, ha definito addirittura vile l'atteggiamento dei suoi dipendenti e ha addirittura appunto coinvolto la Procura della Repubblica denunciando di Roma questa situazione. In tutto questo aggiungiamo un'altra serie di disagi che nei giorni scorsi invece avrebbe causato una serie di disservizi provocati dalla compagnia Vueling nei collegamenti Palermo-Roma, e ieri l'ENAC ha convocato il vettore cercando di farsi spiegare che cosa fosse successo. Allora, Bruno Albertinelli, Federconsumatori, anche questa situazione la conoscete? Ma la conosciamo non tanto, perché le persone hanno già iniziato a rivolgersi presso i nostri sportelli per lamentarsi, per chiedere informazioni e per aprire procedure di rimborso. Ma la conosciamo perché sui giornali è apparsa oggi questa notizia, e credo che sia anche questo un notevole aggravio di una situazione di disagio molto pesante, tenendo presente che anche qua un conto è esercitare diritti in Italia per quello che riguarda i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, purtroppo un altro conto è esercitare i diritti fuori dall'Italia, perché tutte quante le procedure anche previste dall'Unione Europea, purtroppo moltissime pratiche sono ancora aperte per recuperare voli soppressi, cancellazione voli, disagi, tutto quello che c'è in paesi che non sono italiani. Allora, tra l'altro questa mattina Repubblica spiega che l'ENAC ha convocato per venerdì tutte le compagnie che operano in Italia. Per quello che riguarda la Vueling, si tratta, quello che è accaduto, di alcune o molti ritardi, alcune cancellazioni di voli. Ieri per esempio ne sono stati cancellati 14, ma in realtà la questione ancora più problematica riguarda alcuni voli che hanno subito ritardi anche superiori alle 10 ore per tutta una serie di questioni di carattere tecnico. dico cose di routine, non incidenti, ma appunto problematiche di natura tecnica che richiedevano la sostituzione del vettore mentre il gruppo non aveva disponibili appunto aerei sostitutivi, e questo si è riverberato su tutta la rete lasciando a terra molti passeggeri. La compagnia ha reagito all'emergenza, ha provato a noleggiare 6 aerei supplementari, ha mobilitato 34 piloti extra, ma intanto qua la frittata era stata fatta. Allora, Albertinelli, le faccio sentire Claudio dalla provincia di Reggio Emilia, che così un po' si è avventurato con Meridiana negli ultimi giorni, si è avventurato, aveva prenotato un volo. Dove doveva andare, Claudio? Sì, buongiorno. Io ero prenotato da Verona ad Olbia con Meridiana e premetto che non ce l'ho con la compagnia, nel senso che mi rendo conto che non è un problema della compagnia stessa, però diciamo che ho avuto qualche disagio. Sono arrivato il 28 giugno mattina dopo una levataccia alle 5 all'aeroporto di Verona e sostanzialmente c'erano circa 300 persone in attesa e i voli cancellati, tutti i voli per Olbia cancellati, e diciamo c'era solo un volo su Cagliari che sarebbe partito di lì a poco. L'ha preso Claudio? L'ha preso, sì, lei, oppure è rimasto a casa? Che ha fatto? No, io sono rimasto a casa, purtroppo, perché non c'erano abbastanza posti su quel volo. Ne avrebbero accettati solo 20, mi hanno detto. Senta, mi faccia capire, Claudio, lei ha dovuto recarsi in aeroporto per scoprire che il suo volo non c'era più. Le compagnie generalmente non mandano anche o una mail o l'SMS per preannunciare che si sta verificando uno stato di agitazione tale da cancellare un sacco di voli? Perlomeno sarebbe carino. Esatto. Assolutamente, assolutamente niente. In più, oltre a me, c'erano delle persone che avevano subito la cancellazione nel giorno prima e che sono state ulteriormente cancellate anche nella mattina stessa, e anche, diciamo, il volo della sera non si sono fidate ad aspettarlo perché ritenevano venisse cancellato anche quello. Certo. Quindi nessun sì, avvertimento, non solo, ma tentando di chiamare il call center Meridiana, il call center era completamente KO c'era, ho tentato almeno 20 volte di contattare il numero, ma non c'era. Pensi quante telefonate contemporaneamente stavano ricevendo. Claudio, senta, quanto tempo fa aveva prenotato il volo e quanto aveva speso? Dunque, io avevo prenotato il volo circa 10 giorni prima e avevo speso una tariffa ragionevole che era circa di, mi sembra, 240 ma poi quello, euro insomma, per due persone. È un tema secondario. In realtà mi interessava capire quanto tempo prima avesse prenotato, per capire se fosse già nei giorni di partenza delle agitazioni in casa Meridiano, se magari addirittura fosse un volo prenotato per esempio lo scorso inverno, tale per cui nessuno immaginava che si sarebbe arrivati ad un'estate così calda. Perché anche questo fa la differenza, Albertinelli, che ne dici? Fa la differenza, sì, teniamo presente che ci sono due percorsi, uno che addirittura il codice dei diritti del passeggero prevede nessun rimborso in caso di uno sciopero che è stato programmato due settimane prima, perché a quel punto la informazione per forza di cose le compagnie devono darla, se non si fanno ragionamenti di percorsi di reclamo e di conciliazione di un certo tipo. Dall'altra parte c'è il ragionamento di una compagnia aerea che, per carità, è anche, se vogliamo, minore rispetto all'Italia, ma che però dovrebbe, mi permetto di dire, adeguare anche le sue strutture in una situazione di emergenza come quella che si è creata in questi giorni. Cioè, non puoi lasciare 300 persone in balia del nulla in un aeroporto che, se la prendono con del personale a terra che assolutamente non è in grado di gestire situazioni di questo tipo, senza attrezzarti e senza attivarti per risolvere un problema. Lo dicevate voi. Esistono, oggi tutti hanno un cellulare, tutti lasciano quando fanno le prenotazioni dei dati per essere reperibili, e a quel punto manda un'email, manda un SMS, fai una telefonata, cioè attrezza una struttura che possa gestire una situazione di emergenza, e fai come ha fatto all'Italia, metti a disposizione un numero verde, ma che sia un numero verde che non è intasato, perché se c'è soltanto due call center che rispondono, a quel punto è chiaro che dopo mezz'ora quel numero verde è in tilt. Cioè ci va anche da un punto di vista, è vero che non è colpa della compagnia, lo diceva prima giustamente la persona colpita da questo momento di disagio, però è altrettanto vero che la compagnia di fronte a tutte le azioni di lotta che possono essere corrette, non corrette, discutibili, non discutibili, deve per forza, di cosa mi permetto di dire, attrezzarsi e investire anche economicamente per non soltanto rimborsare il biglietto, ma per mettere le persone in grado di capire se possono viaggiare, non viaggiare e limitare il più possibile il danno e soprattutto il disagio. Intanto Egidio da Roma, che si era candidata ad intervenire, voleva fare il parallelo fra i dipendenti di Meridiana che incrociano le braccia in realtà presentando dei certificati di malattia e li paragona appunto Egidio e i vigili urbani di Roma. Ricordiamo quello che successe nel famoso Capodanno in cui praticamente nessuno era disponibile. Senta, Albertinelli, esiste un'autorità garante degli scioperi. Esatto. Secondo lei in queste situazioni, in quali casi dovrebbe intervenire e come? Ma teniamo presente che il volo aereo è gestito a maggioranza da normative contrattuali. L'autorità garante dovrebbe intervenire a fronte anche di azioni personali, uso questa espressione, per cercare di sanzionare o fare percorsi che stabiliscono, usando un'espressione che ha utilizzato l'autorità nel percorso nel trasporto ferroviario, trovando anche soluzioni per garantire diritti minimi ai passeggeri, che oggi c'è il diritto del passeggero a avere i rimborsi economici, il cambio del biglietto, tutto quello che cavolo vogliamo, uso questa espressione, mi permette, scusatemi, tutto quello che vogliamo da un punto di vista di avere un recupero economico di quello che è il minimo del danno subito, ma dall'altra parte però non ci sono diritti minimi che garantiscono quello che avete detto anche voi, cioè sarebbe interessante che l'autorità stabilisse che ci va di fronte a uno sciopero. Si sapeva già dall'altro ieri che lo sciopero per il giorno 5 per Meridiana e per Alitalia era programmato, che venisse avvisato a tutto quanto il mondo possibile e immaginabile, tranne un ragionamento di email, di sms, di telefonate, cioè mettere in garanzia quanto più possibile le persone che gli permettono a queste di non, uno, attaccarsi a un telefono e avere un numero verde sempre intasato, due, arrivare in un aeroporto e litigare con il mondo perché arrivano e scoprono una situazione drammatica. Allora, a lei è mai capitato? 300 persone in un terminal, mi immagino un casino che sarà successo. A lei è mai capitato di trovarsi in queste condizioni, di essere lasciato a terra? E aver detto lei non sa chi sono io? No, questa è una cosa che non mi piacerebbe assolutamente usare, un'espressione che non mi piace. Mi è capitato di rimanere 2-3 ore in un aereo fermo e non sapere perché quell'aereo non partiva. Non partisse. No, mi è addirittura capitato di arrivare a un volo prenotato per le 6, quel volo aveva, come si può dire, il ghiaccio sulle ali, e facevano partire quello delle 7 al posto di quello delle 6, con la gente che si è ribellata. Il problema è proprio questo, è che manca un'informazione corretta e poi purtroppo la maggioranza di noi, uso questa espressione, sfoga la propria rabbia su quelli che sono lì al terminal e che poveretti fanno da parafulmini in maniera che non invitiate. No, e non meritano neanche. Senta Albertinelli, allora andiamo verso la conclusione, l'ultima raccomandazione le chiedo. Allora, l'Italia dovrebbe circoscrivere il suo sciopero alla giornata di oggi, entro le 15 terminare. Per quello che riguarda Meridiana abbiamo la sensazione invece che qua la trattativa sindacale e azienda e l'agitazione possa continuare ancora per un po', e questa è una compagnia importante, se non altro che è una delle poche appunto che collega la Sardegna, perché qua poi dovremmo aprire anche tutta la questione legata ai traghetti, che è un'altra partita molto interessante. Allora, per chi ha un biglietto pronto, dovrà partire nei prossimi giorni, teme qualche disagio in arrivo, come deve andare via ben attrezzato emotivamente? Ma che dice lei, ci portiamo dietro una copia della carta dei diritti del passeggero nei principali casi di disservizio, così che almeno da sventolare per farci aria? Quello sì, per sventolare, per farci aria, per carità, attenzione. Io due cose, non è materia mia, però la trattativa sindacale Meridiana l'ha già fatta, l'ha conclusa, sigle di una certa rilevanza, uso questa espressione, hanno firmato quell'accordo, che può non piacere giustamente perché diminuisce il salario, fa un ragionamento di licenziamenti, però io vorrei solo ricordare una cosa, per un po' di tempo ho fatto attività sindacale, a me mi è rimasto impresso a un Natale scorso delle persone che erano su una piattaforma di una cooperativa che per difendere il loro posto di lavoro, oltre che stare su quella piattaforma, erano disposte a rinunciare a un 40% del loro salario perché era subentrata un altro percorso di persone che lavoravano che avevano ridotto notevolmente le richieste economiche. Cioè, attenzione, i diritti sono una cosa importante, però attenzione, non c'è diritti se non c'è lavoro, e il lavoro, mi permetto di dire, va difeso in maniera corretta. Devo dire che le vicende di Alitalia negli ultimi anni, anche esperienze di questo tipo, ce ne hanno raccontate tante, di rimodulazione. Colpendo le persone che viaggiano, in particolare in una tratta che è in questo momento molto, mi permetto di dire, turistica, è un danno a se stessi, non è un danno alla compagnia aerea, è un danno che ricade sulla compagnia aerea, ma poi ha una ricaduta economica su me, ed è, mi permetto anche di dire, ci sarà gente che si arrabbierà, ma però lo voglio dire, è comodo scioperare mettendosi in mutuo e facendosi pagare dagli altri. Comunque, prima di partire, che facciamo? Una telefonata al numero verde, se riescono a rispondere, documentiamoci al meglio, non arriviamo lì all'aeroporto proprio sprovveduti, perché cerchiamo di informarci. Perché sul sito ci saranno anche delle informazioni. E comunque sappiate che queste cose sono successe in questi giorni, e quindi non è che possiamo proprio presentarci senza facendo finta di non aver né letto nessun giornale, appunto, né sentito radio. Grazie Bruno Albertinelli, responsabile dei trasporti. Buon lavoro. Buon lavoro e buone vacanze per quando grazie. Le farà. Allora, abbiamo parlato di cancellazioni di voli e di ritardi, ce la siamo un po' gufata perché il nostro ospite che abbiamo detto sarà qui negli studi, eccetera, rolli ci sta raggiungendo che non finivano più. Al volo in taxi. Buongiorno al dottor Gualerzi. Buongiorno a tutti voi. Intanto ci saluti il taxista che la sta accompagnando, perché molti taxisti ci seguono. Esatto. Quando saluto prendiamo un taxi. Il taxista che gli ho fatto spegnere la radio perché sennò fa interferenza, sennò li ascoltava. E certo. Allora, intanto accettiamo all'800 24 00 24 iscrizioni per questa seduta di approccio al cambiamento. Più che cambiamento vorrei chiamarla trasformazione. Obiettivo: mantenere o recuperare una buona forma psicofisica. Il dottor Gualerzi è in linea con noi, ma tra poco entrerà in studio. Lo conoscete bene, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore di La dieta super salute, una dieta che non ha come scopo ultimo solo quello di far perdere peso, ma piuttosto di rigenerare, regalare salute e benessere. Lo fa con un approccio particolare. Intanto non prevede rinunce drastiche né mortificanti, dottor Gualerzi. Assolutamente no, perché la tristezza, sappiamo, e quindi le eccessive rinunce sono antitetiche nei confronti del dimagramento, ma anche della salute. Quindi bisogna essere felici, consapevoli e cambiare, trasformandosi lentamente in qualcosa di migliore rispetto a ieri, però senza fare cambi. Ecco, il messaggio, Debora, è per l'ascoltatore che sono certa ci scriverà, per dire non che voglio, senso ha vivere da malati per morire da sani, e quindi può scrivercelo, io lo leggerò come tutte le volte, ma dottor Gualerzi, non si può cambiare dall'oggi al domani, né si possono ottenere in tempi brevi risultati apprezzabili e duraturi, ci vuole costanza, determinazione, ma lei aggiunge anche una parola chiave, la consapevolezza. Certo, molto spesso seguiamo anche comportamenti virtuosi solo perché ci sono stati un po' appiccicati addosso, ci sono stati detti. In realtà la consapevolezza è capire esattamente dove si vuole andare, e quando si sa dove si vuole andare è più facile sicuramente andarci, anche ad accettare qualche ipotetica rinuncia. Quindi la consapevolezza è tutto questo. Sicuramente quello che dico, non bisogna fare operazioni di maquillage quando si parla di salute, ma azioni concrete che portino le persone a vivere meglio, non necessariamente di più, anche di più, ma sicuramente meglio, e per fare questo ci vuole tutto un intorno, tutto uno stile di vita particolare, che appunto diremo ai nostri radioascoltatori. Ecco, la puntata di oggi vuole muoversi proprio dalle vostre domande, dalle vostre richieste, vuole essere una puntata un po' così, rispecchiando lo stile del libro del dottor Gualerzi, pratica, che ti dà dei suggerimenti, che ti permette di costruirti un po' un percorso su misura. Allora, se lei mi aiuta, dottor Gualerzi, vorrei fare un sommario ragionato degli aspetti che toccheremo per invitare i nostri ascoltatori a seguirci. Ci rivolgiamo a chi ha seguito tante diete e si è accorto che i miracoli non esistono, magari ci ha messo tanto ma alla fine si è convinto. Dottor Gualerzi. Sì, diciamo che proprio anzi, le persone che spesso sono state tante a dieta fanno ancora più fatica ad ottenere risultati perché hanno addormentato spesso il metabolismo. Quindi ci rivolgiamo a loro pensando di essere qualcosa di diverso rispetto alle solite diete o alimentazioni che hanno seguito fino adesso. Ma anche a chi non ha problemi di peso, ma si sente un po' giù di tono, scarico, insomma non in forma, lei nel suo libro, dottore, parla di superalimenti che sono il frutto di una ricerca attenta e scrupolosa anche delle diete dei centenari. Vuole darci un assaggio a vantaggio dei nostri amici per invogliarli a restare con noi? Beh, parleremo di tutti quegli alimenti che accomunano tutte le popolazioni che vivono di più, ce ne sono alcuni che conosciamo bene, altri che magari alcune alimentazioni troppo restrittive hanno tolto, come il pesce azzurro che ha degli studi molto importanti, ma anche alcuni frutti come diciamo l'avocado che è meno conosciuto da noi ma che ha delle proprietà veramente incredibili. Però la puntata è dedicata anche a chi invece si sta già impegnando per mantenere una buona forma fisica, mangia bene, si muove, ma non è soddisfatto dei risultati ottenuti. Parleremo di attività aerobica e anaerobica per conoscere le dosi, i tempi di somministrazione, anche per dare consigli per fare meglio, che non significa, dottor Gualerzi, necessariamente fare di più. No, non significa fare di più. Io dico sempre, l'attività fisica come un farmaco non è che più medicina prendiamo, meglio stiamo. Va presa nel dosaggio giusto e seconda delle indicazioni o degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Sicuramente l'attività fisica è l'altra faccia della stessa medaglia della salute. Non si può pensare di star bene solo se mangiamo bene. Dobbiamo pensare di vivere meglio, di stare meglio facendo una sana alimentazione, un buon movimento, un corretto movimento. Ma come avevamo detto all'inizio, di essere concentrati sugli obiettivi e consapevoli di ciò che stiamo facendo. Allora, andiamo ai quattro pilastri su cui si poggia la trasformazione che lei propone. La cronobiologia, che tradotto significa in questo caso il cibo giusto al momento giusto, seguendo i ritmi del nostro corpo. Dottor Gualerzi. La cronobiologia è intesa sia come esseri umani che vivono in un ambiente che muta nel tempo, tutte le cose viventi mutano e mutiamo anche noi, quindi non siamo uguali in primavera rispetto all'estate o all'inverno e quindi avremo bisogno di atteggiamenti e comportamenti diversi. E l'altro aspetto è quello anche la distribuzione corretta del cibo durante la giornata a seconda della propria cronobiologia, quindi ognuno ha una propria cronobiologia e dovrà distribuire il cibo in modo diverso. Aiuteremo anche le persone a capire quale è la cronobiologia. Che domande devono farle? Che cosa vuole dare uno spunto già ai nostri ascoltatori per capire un po' di come fare, di riconoscere un po' e riconoscere la propria cronobiologia? La cronobiologia si riconosce anche dai bisogni vitali, quindi quando abbiamo più fame, quando andiamo di corpo durante la giornata, quando se abbiamo sonno alla sera presto oppure siamo dei galletti, gufi, ecco, gufi, allodole o colibrì, come aggiungo questo io. Ci aiuta a capire, ma anche l'aspetto fisico, cioè dove abbiamo più spesso localizzato il nostro grasso, dice quali sono le alterazioni ormonali, endocrine, quindi della cronobiologia che abbiamo, e quindi in base a quello decidiamo anche un certo tipo di attività più specifica, un certo tipo di alimentazione più adatta. In sostanza, se siamo pere o mele, che sono sì, no? due frutti che ci raccontano un po' la o melanzane ecco, dove morbida, ecco, se siete forti di vita oppure di cosce oppure se avete un sovrappeso che è distribuito. 800 24 00 24 perché parleremo anche di quella che nel libro il dottor Gualerzi individua come la fase detox, ovvero dei cicli disintossicanti per dare una scossatona al metabolismo. Ne abbiamo parlato tra l'altro di recente, dottor Gualerzi, anche col dottor Walter Longo con la dieta Mima Digiuno, mm-hmm, in una puntata che ha avuto grande successo. Vedi, li metto un po' in competizione. Io anzi non solo non sono in competizione, lo no, stimo sì, e l'ho anche citato nel mio libro, lo so, prima di conoscerlo, quindi lo ottimo, so ottimo, però adesso ottimo, ce lo teniamo noi. Infatti devo dire che un po' anche si assomigliano, vero? Un po' come tipi. Sono due gran bei ragazzi, va entrambi. Bene. E d'altronde infatti, hanno tutti i segreti per tenersi in forma, certo, se non sono belli loro. E ci racconterà e ci suggerirà anche qualche cibo super salute che io passerò anche a Filippo Aureggi, che regge la parte tecnica, che è veramente un osso duro. Sarà duro che una lista di alleati, antiossidanti e non solo, dottor Gualerzi, il suo post sull'acqua addizionata, sì, di aceto di mele da sorseggiare all'inizio della giornata per riattivare il metabolismo e bruciare i grassi è stato in testa alla classifica dei post più cliccati per mesi. Guarda, solo richiamarlo adesso tu vedi che cosa succede sul sito. Ecco, dottor Gualerzi. Sono quelle cose semplici che le persone riescono a fare senza appunto stravolgere la propria vita e che danno effetti, perché diciamo che l'aceto di mele è ricco di acido acetico, che ha un'azione diciamo di lipolitica ma anche di accelerazione del metabolismo, e obiettivamente molto meno cattivo rispetto a quanto si possa immaginare berlo un cucchiaino nell'acqua la mattina, e quindi diciamo che si riesce a fare un'ottima cosa con poco sforzo. Ecco, poi c'è sempre la nostra parola chiave, consapevolezza, e vuol dire anche avere ben chiari gli obiettivi che vogliamo raggiungere e anche un po' avere voglia di cambiare, di abbandonare quella routine così comoda che però magari non ci soddisfa più. Ecco, abbiamo un po', dobbiamo avere un po' anche la forza e il coraggio di ammetterlo. Chissà se un po' di acqua acidulata con l'aceto di mele farebbe bene ai tuoi mercati. Guarda, stamattina ci vorrebbe un integratore un po' più forte, direi, non so che cosa, ma adesso ci inventiamo qualcosa. Ma dottor Gualerzi, adesso dove la sta portando il nostro amico taxista? Ci siete quasi? Sì, amico taxista, sono proprio davanti qua da voi. Allora facciamolo scendere, dai. Ok, allora subito, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione. Oggi si cambia, ci aiuta il dottor Gualerzi che è arrivato in studio da noi. Buongiorno e ben ritrovato, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, lei dovrebbe prendere questo brano dei Liftiva per avere come colonna sonora del suo nuovo libro, perché il corpo che cambia, ma non solo, no? Ci vuole, no, tutto anche un po' una sorta di voglia di trasformarsi. Allora, se voi volete fare un piccolo cambiamento per dare via a questa trasformazione più profonda del vostro stile di vita generale, scriveteci. Se state accarezzando l'idea, ma... non siete ancora convinti, seguiteci, alla fine fateci sapere se che cosa avete deciso di fare. In questa puntata è dedicata, io pensavo un po' a chi vuole provare l'ebbrezza di sentirsi in piena forma. Dottor Gualerzi, ho anticipato che l'estate ci propone il solito tormentone della prova costume, no? E a questo punto ci vorrebbe la bacchetta magica, perché c'è chi vorrebbe eliminare la pancia, chi sfilare le cosce, chi avere il fisico da melanzana dovrebbe invece essere un po' toccato in vari punti dalla bacchetta. È tardi, ma non è mai troppo tardi. Qualcosa si può fare. Sì, assolutamente sì, anche se mi auspico che chi segue noi non abbia l'assillo della prova costume, perché è troppo riduttivo. La manutenzione la fa tutto l'anno e comunque oggi in costume si sta bene. Ieri ho letto un articolo anche che un po' di pancetta hanno inventato i costumi che la coprono, quindi diciamo quello non è più un problema. Contenitivo, diciamo che, il costume contenitivo. Quindi l'importante è invece guadagnare veramente in salute e sentirsi pieni di energia, con la vita intensa, ma nello stesso tempo avere gli giusti spazi, e questo ci Quindi fa essere più belli anche fuori. Panciuti e felici? No, diciamo magri e felici, ma nello stesso tempo che con qualche chilo in più si può essere sani. Nessuno che pesa qualche chilo in più vive di meno. Sicuramente bisogna abolire, invece distruggere, uso questa parola, proprio il grasso viscerale, quello infiammato, quello che ci fa male e quello che ci toglie anche energia. Quindi delle volte i cali energetici sono anche l'espressione invece di qualcosa di più profondo che non va bene e che può derivare anche dal grasso, che non è necessariamente quello estetico, ecco, il grasso che non ci piace. E un consiglio al volo per stuzzicare un po' la voglia? Direi quello che nei ristoranti stellati viene chiamato un po' il saluto della cucina, sai? Ah sì, che ti danno questa piccola entrée e tu inizi a immaginare che cosa potrebbe, no, seguire dopo. Dottor Gualerzi, l'entrée che cosa serviamo? Ma come servizio è quello di dire che le persone hanno bisogno di farsi spesso la domanda, no, di come stanno, e quando questa domanda ci si risponde da sola, non troppo bene, no? O comunque quando diciamo anche agli altri questo, ecco, è un momento giusto per fermarsi e prendere in considerazione le cose. Quindi non releghiamo la nostra salute a tanti esami o tante misurazioni, sentiamo noi quello che ci viene da dire quando parliamo della nostra salute. Quando rispondiamo questo, è giunto il momento per prenderci appunto cura più di noi stessi. Quindi più che un entrée, direi che è un punto punto di consapevolezza d'ingresso, ecco. Allora, dottor Gualerzi, lei ci ha messo in costume, ha detto che, perché è super informato, ci sono questi costumi un po', sai, anche per le donne, sì, adesso un po' anni 30, a calzoncino, contenitivo. Allora, tengono la pancetta, però io vorrei parlare dei muscoli, che oltre a servire a fare bella figura in spiaggia, tengono anche, fanno tante cose, ma tengono anche attivo il nostro metabolismo. Qualche settimana fa, sì, il suo collega amico Filippo Ungaro ha infatti suggerito di praticare anche attività anaerobica per potenziare la massa muscolare e recuperare non solo la forma fisica ma anche la salute. Quindi anche l'attività fisica va diversificata, un po' come insegna Deborah per gli investimenti. Immagino però anche in funzione degli obiettivi che ci si pone. Ma quando diciamo diversificata, ci dica bene che cosa investire, quanto, come fa il portafoglio Deborah, quanto in azioni, quanto in obbligazioni, quanto in fondi, no? Sì. In valute. Ma in oro. Stupefatta. Wow, ce l'ho fatta, ragazzi. Cioè, adesso se io però non ho un centimetro in meno quando esco da questa trasmissione nel giro vita, allora, no, mi sentite? Anche due, guarda. Allora, direi che ripartendoli in percentuale, diciamo un 60% di attività aerobica, un 30% di attività anaerobica di potenziamento, un 10% di attività, diciamo, più articolare, quindi quella di allungamento e di, diciamo, oliatura delle nostre giunture, per dirle in parole povere. Quindi, diciamo, ripartite in questo modo. La parte del leone la fa sempre l'attività aerobica. Poi Quindi vuol dire camminata, corsa, bici, sì, nuoto, tutte le attività che muovono le grandi masse del nostro organismo, le grandi masse muscolari del nostro organismo, e lo fanno per almeno 30 minuti. Quindi questo si definisce attività aerobica. Poi un 30% di attività di muscolazione, quindi anaerobica, attività molto più intensa che facilita la crescita muscolare, e un 10% di allungamento del muscolo, quasi quella che definiremmo stretching o pilates o via dicendo. Quindi questa attività, questo è un cocktail appropriato per essere in salute ma anche per perdere peso, logicamente. Hai capito? Eh sì, adesso... Allora, adesso andiamo. Dove vuoi andare? A Firenze o a Piacenza? Andiamo a Piacenza, praticamente avrà viaggiato quasi quasi con il professor, col dottor Gualerzi. Germano, buongiorno. Buongiorno. Allora. Devo fare io, esporre io il mio caso. Cioè non so, se vuole che glielo racconti io non so che cosa lei vuole raccontarci. Ci segnalano che però è in bici e vuole sapere l'alimentazione. Ho sintetizzato. Vado allora. Volevo solo dire questo. Volevo sapere questo. Secondo me, io faccio molto strada in bicicletta, anche in bici da corsa, dai 12-14 mila chilometri all'anno, cioè sono in pensione, eccetera. Eppure io non sono super come peso, penso di essere giusto. Sono 1,70, peso 70 kg, 60-72. Va bene, quindi... Quando si va sotto peso, che io per esempio posso arrivare a 69... 68, a volte quando arrivo è una lotta contro, ma anche per il mangiare. Allora, Germano, è chiaro, è un po' agitatino Germano, perché forse va in bici. Va troppo in bicicletta, perché anche il troppo. Guarda, ne approfitto per dire una cosa che è interessantissima, che tra l'altro la settimana scorsa mi sono capitati due casi di ciclisti, a loro dire amatori, ma in realtà sono più dei professionisti quelli che fanno così tanti perché chilometri. Perché macinano un sacco di Succede chilometri. Succede che quando si fanno così tanti chilometri e non si è veramente dei professionisti, cioè non si ha un intorno adatto, quindi una supplementazione corretta, un'alimentazione corretta, ma anche un riposo corretto, e lo dico due volte, riposo, perché i professionisti si riposano molto di più degli amatori. Gli amatori finiscono di lavorare o di fare le loro cose, poi escono e vanno in bicicletta, non hanno soluzione di continuo e non si riposano mai. Succede che si attiva uno stato di catabolismo, quindi di riduzione di, diciamo, l'organismo inizia a mangiare le proteine, non solo i grassi, e quindi perdiamo massa magra, perdiamo energia, e si va verso una situazione dove paradossalmente più ci si allena, più si va in bicicletta, più si fanno, diciamo, più si esce e meno si ha forza, meno si ha resistenza, e cominciano ad essere, diciamo, minori le prestazioni che si hanno. Questo lo possiamo vedere, se non siete convinti, anche guardando i professionisti. I grandi professionisti non corrono tutti i giri che si svolgono a livello mondiale, ad esempio di ciclismo, ma neanche gli atleti, ad esempio adesso ci sono gli europei, neanche i calciatori sono in grado di mantenere un ritmo serrato, costante per più tempo durante la stagione. Ci sono degli alti e dei bassi. E quindi quello che mi raccomando è il riposo. Quando un segnale è che, quando, come dice il signore, continua a perdere peso e non riesce a stare dietro con l'alimentazione, risulta veramente fondamentale fermarsi. e no, di non aver paura di perdere la forma, perché paradossalmente, anzi in questo caso non paradossalmente, fermandoci poi si rende di più e si va più veloce. Allora, chissà che cosa, come verremo fuori noi dopo questa pausa che facciamo per sentire ma che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme con le vostre domande e con il dottor Gualerze, tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Non c'ha torto, Quante, l'amore fa perdere subito peso, Sì, dopo lo fa anche guadagnare. Questo non lo so. Comunque, dottor Gualerze, allora abbiamo sentito questo breve estratto da Anna e le sue sorelle, perché nell'ultima parte della nostra trasmissione vogliamo sentire gli ascoltatori che sono già in fila all'800240024 per consigli pratici, ma vorremmo anche tornare sull'allenamento, perché spesso ci si chiede genericamente a che frequenza ci si debba allenare. In realtà, per saperlo, ancora una volta bisogna fissare l'obiettivo e poi regolarsi di conseguenza, perché può essere un'attività fisica che ci aiuta a perdere peso, un'attività fisica invece che serve per mettere a posto magari alcuni parametri che sono sballati, penso alle persone che sono lievemente ipertese, oppure per fare di più, per superarsi. Di questo parliamo subito dopo con delle formule e delle indicazioni, ma abbiamo due signore che ci attendono, Silvia da Firenze e subito dopo Francesca da Ravenna. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Starò breve. Allora, grazie. Io sono molto magra perché sono 1,68 e peso 50 kg da sempre. Diciamo che curo a molto l'alimentazione e anche mi curo con l'alimentazione. Quindi se ho qualche problema ho un nutrizionista e quindi di solito li risolvo così. Allora, la cosa che io però ho notato purtroppo, pur facendo tre volte la settimana sport, eccetera, che le gambe sembrano un'altra cosa del mio corpo, cioè mentre il resto è in piena forma, le gambe purtroppo hanno sempre queste ondine che si vedono, che credo sia a questo punto... una sorta di cellulite. Ha pronunciato la parola terribile. L'impronunciabile cellulite. Silvia, diamo la parola subito al dottor Gualerze, perché rispondendo a Silvia risponde a tutte le nostre amiche che, no, chi più chi meno, siamo tutte un po' preoccupate dalla cellulite. Allora diciamo che potrebbe, visto che dice che è magra e che invece localizza grasso nella parte inferiore, diciamo la etichettiamo come una forma più che altro a pelo. E allora due chicche, nel senso che chi ha questo tipo di assetto fisico mediamente ha una tiroide che funziona meno, non necessariamente che si può valutare dagli esami di laboratorio, ma ha un ormone meno attivo, ha un metabolismo basale tendenzialmente più basso e ci sta con una persona che si è sempre curata con l'alimentazione, magari anche in modo un po' restrittivo, quindi che ha addormentato un po' il metabolismo. Allora, i due consigli per questo tipo di persone sono queste. L'attività fisica, ok, ha detto che si allena tre volte la settimana, bisognerebbe capire come, le dico io una cosa di come farla. Per chi ha questo tipo di problematiche tendiamo a fare un tipo di attività che si chiama PHT, attivare zone periferiche muscolari distanti tra di loro. Quindi ad esempio lavorare con la parte inferiore del corpo, tipo con i polpacci o con le cosce, e poi andare ad attivare le spalle, in modo tale che la circolazione sia stimolata da dover lavorare due masse muscolari molto distanti fra di loro, quindi c'è un aumento della distanza da cui il sangue deve arrivare in modo in breve tempo, e quindi in questo modo la circolazione sarà diciamo facilitata. Perché dico questo? Perché le persone che hanno problemi sulla tiroide, che hanno il metabolismo abbastanza basso, tendono ad avere anche la circolazione lenta, le mani e i piedi freddi e quindi un pochino di ristagno di liquidi, e la cellulite è un'espressione di questo, quindi attivare masse muscolari molto distanti tra di loro aiuta molto a migliorare la circolazione. E l'altra cosa, l'altro aspetto invece alimentare, è quello di iniziare con una colazione molto ricca, ma soprattutto di zuccheri semplici, perché lo zucchero la mattina, anche semplice, è in grado di stimolare l'azione e la funzionalità della tiroide, e quindi in questo caso abbiamo uno sblocco sul metabolismo, senza dimenticare il fatto che per prima di iniziare questa cosa, di fare sempre la parte detox, perché altrimenti il metabolismo è come braci che ardono sotto una coltre di cenere, se non togliamo la cenere quindi non possono in questa ardere. Allora io due cose devo chiederle, ti piace il detox ma è anche la palestra? Io questi due allenamenti così lontani, così vicini, poi mi dice come si fanno, perché certo, dopo scriveremo, ecco, appunto naturalmente rimandiamo poi al nostro sito dove il dottor Gualerzi ci scriverà il post, ma dottore, la fase detox è importante, bisogna sempre farla prima di, è come un po' accendere, no, il motore, prima di partire facciamo questa fase detox per tutti, ci sono delle attenzioni, precauzioni, avvertenze? No, noi abbiamo, dicevo prima, perché va fatta per tutti, perché è un po' come se volessimo ripitturare il muro di casa nostra e invece di togliere il colore che c'è sotto, pitturiamo sopra questo, diciamo che il colore non si impregna bene, il muro non si impregna bene. Oppure un altro esempio è come avere delle braccia appunto che ardono sotto una coltre di cenere, se noi rimuoviamo la cenere, anche se buttiamo benzina sopra quelle ceneri, quelle braccia, diciamo il fuoco non torna ad ardere. Quindi per farla, e quindi per farla bisogna togliere tutti quei cibi che allergizzano di più, non necessariamente perché siamo allergici, quindi togliere quei cibi che sono un pochino più complessi per il nostro organismo, quindi togliere glutine in questa fase, quindi cereali senza glutine, togliere tutte le proteine di origine animale, togliere i grassi saturi e quindi affidarci per questi 3 giorni a bevande sostanzialmente fatte con verdure e frutta di stagione, magari combinate bene, adesso poi scriveremo sì, magari certo, anche qualche juice giusto da seguire durante la giornata. Juice gualerziano. Sì, gualerziano, e mettere qualche cereale, e se poi uno ha fame, perché non bisogna arrivare ad avere una fame, diciamo, da mangiare le gambe di quarto giorno, no, ma bastano 2 o 3 giorni. Perché è stato dimostrato che dopo 2 o 3 giorni, diciamo, l'80% delle tossine se ne vanno e quindi c'è una sorta di riduzione dello stress ossidativo. Di reset. Allora, ci dà la formula per un allenamento ad hoc per dimagrire? Per dimagrire diciamo che dobbiamo tener conto di 2 cose. La prima, che uno degli allenamenti più importanti è diciamo allenarsi alla mattina a stomaco vuoto, nel senso che in questo caso aiutiamo molto l'utilizzo delle scorte che abbiamo, e perché non abbiamo energia pronta utilizzabile in circolo, e quindi dopo aver bevuto le nostre 2 famosi bicchieri d'acqua con un po' di aceto, iniziare ad allenarci. Allenarsi dal punto di vista aerobico a una frequenza cardiaca tendenzialmente che raggiunga il 60-65% di quella massima, e ricordiamo che la frequenza cardiaca massima si calcola sottraendo a 220, che è un numero fisso, l'età che abbiamo, quindi una persona di 20 anni avrà 220 meno 20, 200, 200, e fa il 60%. Che è la frequenza nostra. No, Deborah? Sì, esatto. Certo. Non ho detto 40, ho detto 20. Infatti. Sono stato gentile. E quindi diciamo è fare il 60% di 200, che in questo caso è 120, e quindi fare appunto allenarsi a 120. La frequenza in questo caso aiuta molto a bruciare i grassi, quindi una frequenza lipolitica, ma ricordiamo che, e lo ribadiamo per la terza volta, che sostanzialmente non dobbiamo fare solo attività aerobica, ma anche attività di potenziamento, di resistenza, attività anaerobica. Non si dimagrisce facendo solamente attività aerobica, quindi aggiungiamo il nostro 30% anche di potenziamento muscolare. Tonifica, che mi guarda, vedi che guarda le mie bracciettine. Ma tu c'hai dei muscolini, io per rafforzarmi un po' devo ammazzarmi, sembrano... Allora, chiudiamo salutando il dottor Gualerzi, che stresseremo con i consigli che metteremo sulla nostra pagina. Certamente. Di Cuore Denari. Ho rinunciato allo zucchero e all'alcol dal ottobre dell'anno scorso, faccio attività fisica 3 volte alla settimana e seguendo i consigli del dottor Gualerzi, certo, ad oggi ho perso 19 kg. Grazie al dottor Gualerzi, tutti in forma ancora per domani? Sì, no, aspetta, mi raccomando, le 7 porzioni al giorno di frutta e verdura, ciao dal fruttivendolo. Salutiamo anche il fruttarolo. Anche lui, oltre che il tassista. Dai, amico facciamo di 5, Gualerzi. Dai, non dai 5. Grazie a tutti, a domani, buona giornata.